Oh, signora, alta parecchia, molto, e l'estremo ad udir. Convenne mai di più crudel? Resiste, ostinato vi più nel suo pensiero il soldan. E poiché gir se ne vuoto, vide la speme del te sotto inganno. Ma ti attentato, a forza volle da me soscritto un foto, in cui che sangue mio merindo scrisse. E tu il segnasti, oh Dio! Posto fra due da crudel violenza, uditor al te il figlio, o a lui la vita, e lessi il mal minore, e quello cui riparare si può. E come mai? Allor che di rosare le nozze a celebrare scendere al tempio, e col foglio rapito vorrà detti avverrar, perché le redezze l'increduto di lui sposa sia. Tutto porrai, io m'apporrò, e le sue violenze far palesi, onde i fede non troni, e lasci il crudo impegno. So ciò consiglio il ver, io so